24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Sergio Nava e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano il passaggio di consegne della presidenza di turno europea che dall'Ungheria è andata alla Polonia. Vi racconteremo come il paese dell'est è arrivato all'appuntamento. Vi aggiorneremo anche sulle ultime novità dalla Grecia e dedicheremo un lungo approfondimento all'ultimo rapporto sulla tassazione nell'Unione che rivela in Italia la più alta tassazione sul reddito da lavoro dipendente. Restate in ascolto, vi spiegheremo come siano calate in Europa le tariffe sulle telefonate in roaming. La Polonia ha assunto da ieri la presidenza dell'Unione Europea. In un clima di festa, Varsavia ha preso tra le mani per la prima volta il timone del continente. Da oggi l'Europa siamo noi, ha titolato Gazzetta Wyborcza, il quotidiano polacco più diffuso. Sentiamo. Varsavia dal 1 di luglio, per la prima volta dal suo ingresso nella Unione Europea avvenuto nel 2004, terrà per un semestre la presidenza europea. Un traguardo importante, storico, che arriva dopo appena 22 anni dalla caduta del regime comunista e le prime elezioni libere tenutesi nel 1989 sull'onda delle gloriose lotte nei cantieri navali di Danzica e di Lech Walesa. Chi torna oggi in Polonia dopo quegli anni in bianco e nero trova un paese completamente diverso, ottimista, dinamico, proiettato nel futuro. Lo skyline di Varsavia, la capitale, è completamente cambiato, nuovi insediamenti, grattacieli, multinazionali, centri commerciali, il nuovo stadio per gli europei di calcio del 2012. La Polonia è diventata la locomotiva dell'Est, l'unico paese dell'Unione Europea che ha evitato la recessione nel 2009, grazie anche alla capacità di usare gli 85 miliardi di euro di fondi strutturali europei. Secondo fonti della banca di investimento di Unicredit a Varsavia, in estate due società polacche potrebbero acquisire due imprese italiane. Segno dei tempi, ora sono i polacchi e non l'idraulico tanto famoso a venire in Italia per fare shopping. Vittorio Darold, Radio 24, il Sole 24 Ore. La Polonia ha chiesto una poltrona di osservatrice nella riunione dell'Eurogruppo pur non facendo parte dell'Eurozona. Non è per ragioni di prestigio, non vogliamo entrare come membri ma a seguire i lavori per ragioni di informazione, ha affermato il Premier Donald Tusk. I paesi dell'area euro hanno già raggiunto un accordo per sbloccare il versamento della nuova tranche di aiuti alla Grecia. Per formalizzare il via libera al versamento dei fondi è stato deciso di anticipare di un giorno e ridimensionare a teleconferenza la riunione straordinaria dei ministri delle finanze originariamente prevista per domenica. Si svolgerà dunque sabato ed è scontato che proceda lo sblocco dopo che giovedì il Parlamento di Atene ha definitivamente approvato il piano di austerità di bilancio supplementare che Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale pretendevano. E ora andiamo a sentire come si sono comportati i mercati con la borsa. Il rally delle banche ha trascinato Piazza Affari nella quinta seduta consecutiva di rialzo. Il FTSE All-Share ha guadagnato l'1,5% e il FTSE MIB l'1,63%, prestazioni che hanno portato il bilancio settimanale degli indici rispettivamente a più 6,7% e più 7,1%. Gli ordini di acquisto sulle banche sono stati innescati dal via libera al piano di austerità della Grecia, che ha sbloccato gli aiuti di Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale. La Banca Popolare di Milano ha guadagnato il 7,9%, il Monte dei Paschi il 6,1%, Unicredit il 5,3% e Intesa San Paolo il 4,2%. Ha perso terreno in controtendenza invece Atlantia, meno 2,4%. Il titolo ha risentito delle novità fiscali contenute nella manovra economica approvata dal governo in merito agli ammortamenti delle concessioni. Paolo Paronetto da Radio Corp per Radio 24, il Sole 24 Ore. L'Italia è al primo posto in Europa per la pressione fiscale sul lavoro. Sentiamo il servizio. Anche quest'anno l'Italia ha ottenuto il primo posto in una classifica che nessun paese vorrebbe mai scalare, quella del prelievo fiscale sul lavoro. A rivelarlo è l'Eurostat, secondo i dati nazionali relativi all'anno 2009 e appena pubblicati nel rapporto dedicato alle dinamiche della tassazione in Europa. Dal 43% del 2008 l'Italia è scesa al 42,6%, con conservando comunque il primo posto in Europa per quanto riguarda le imposte sul lavoro, seguita in classifica rispettivamente dal Belgio con il 41,5%, dalla Francia con il 41,1% e dall'Ungheria con il 41%. La minore imposizione si trova invece a Malta con il 20,2%. Alta classifica per il nostro paese anche per quello che riguarda la tassazione sui capitali. Dai numeri dell'Ufficio Statistico dell'Unione Europea emerge come l'Italia sia seconda soltanto alla Danimarca, con il 39,1% di Roma contro il 43,8% di Copenaghen. Per trovare il dato più basso, in questo caso bisogna spostarsi a est, con la Lettonia che si attesta al 10,3%. Giacomo Segantini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ascoltiamo ora in esclusiva a 24 ore in Europa Marco Fantini, capo settore della Direzione Generale Fiscalità e Dogane della Commissione Europea. L'Italia in generale ha una struttura fiscale che è relativamente poco incentrata sulle imposte indirette e piuttosto basata sulle imposte dirette e in particolare sull'imposizione sul lavoro, nella quale noi includiamo anche i contributi sociali, perché questi contribuiscono poi a creare costo del lavoro. Quindi questa è una caratteristica strutturale del sistema fiscale italiano che, per la verità, il governo italiano ha già, segnatamente il ministro Tremonti, ha già in varie occasioni segnalato come una caratteristica che andrebbe modificata nel tempo, spostando l'imposizione piuttosto verso le cose, quindi dalle persone alle cose nella sua espressione, il che significherebbe uno spostamento della pressione fiscale via dall'imposizione diretta, e quindi che è prevalentemente basata sul lavoro, verso l'IVA e le accise. Da questo punto di vista è una caratteristica sicuramente strutturale del sistema fiscale italiano fino a questo momento. Lo scorso maggio il tasso di disoccupazione nei 17 paesi dell'Eurozona è stato pari al 9,9%, lo stesso livello del mese precedente. Lo ha reso noto Eurostat. Anche nell'insieme dei 27 il tasso è rimasto invariato al 9,3% rispetto ad aprile. Complessivamente, secondo Eurostat, i senza lavoro nei 27 sono 22,3 milioni, di cui 15,5 milioni nei paesi dell'Eurozona. Con un tasso di disoccupazione dell'8,1%, l'Italia si colloca al di sotto della media europea. In crescita, però, sempre in Italia, ai giovani senza lavoro. Non si placano le polemiche sulla proposta di quadro finanziario dell'Unione Europea per il periodo 2014-2020 proposto mercoledì dalla Commissione. Il ministro delle Finanze austriaco Maria Fekta ha criticato la proposta. È troppo cara, noi tutti dobbiamo risparmiare drasticamente, ha detto la Fekta, respingendo nel modo più assoluto l'aumento del 5% del budget comunitario. E c'è un colpo di scena nella vicenda del politico francese ed ex direttore generale del Fondo Monetario Internazionale Dominique Strauss-Kahn. Sentiamo la corrispondenza da New York. Dominique Strauss-Kahn sarà a piede libero, non dovrà lasciare la cauzione, non potrà però lasciare gli Stati Uniti. Questa è la decisione del giudice dopo un incontro in tribunale che è terminato appena 15-20 minuti fa, dopo le clamorose rivelazioni secondo cui la cameriera che lo accusava di stupro avrebbe mentito su alcuni punti chiave su cui poggiava l'accusa. Si tratta di un passo in avanti molto importante ovviamente per Strauss-Kahn, ma la procura di New York non ha fatto cadere per ora le accuse penali, l'impalcatura resta la stessa, la credibilità del testimone chiave sembra compromessa. Per Strauss-Kahn c'è per ora un'apparente vittoria morale. Il prossimo appuntamento in tribunale è il 18 di luglio. Mario Platero, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. Buone notizie per chi telefona quando è in viaggio in Europa. Da ieri sono calate le tariffe per la telefonia mobile all'estero. Il roaming, cioè la possibilità di utilizzare il proprio telefonino anche quando ci si trova all'estero, cioè su una rete diversa da quella del nostro operatore, è regolato da accordi tra le aziende telefoniche. Ma in Europa, con l'obiettivo di rendere più omogenea l'area dei 27 e meno difficoltosi gli spostamenti, la Commissione è più volte intervenuta per imbrigliare quegli accordi in favore dei clienti. E così dal 2007 le tariffe di roaming hanno imboccato una strada in discesa. Da oggi il nuovo listino imposto da Bruxelles fissa un tetto massimo di 35 centesimi al minuto, IVA esclusa per le telefonate fatte dall'estero, mentre per quelle ricevute si pagheranno non più di 11 centesimi. E visto che per la Commissione la situazione non è ancora soddisfacente, cioè esistono ancora problemi di concorrenza tra gli operatori, Bruxelles lavorerà per azzerare entro il 2015 le differenze tariffarie tra i paesi europei. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per gli appuntamenti di lunedì vi segnaliamo l'inizio della sessione plenaria dell'Europarlamento. È tutto per il nostro appuntamento con 24 Ore in Europa. Un grazie come sempre a Mauro De Angeli in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.